Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Fidarsi, ecco cosa. Fidarsi della strada, delle indicazioni e di chi te le dà. Penso che se non mi affidassi ad ogni passo, non mi muoverei più di un metro. Ieri ho ricevuto il mio battesimo. Una signora, rivolta al marito, ha detto: guarda, quello è il viandante. Io sono Rosario Tedesco, ho 38 anni, sono nato a Palermo, sono un attore e un viaggiatore. Attraverso l'Europa, a piedi, seguendo il Danubio. Sono le 16:08 minuti, questa è Radio 24, è il primo giorno di giugno del 2012 e oggi si parla di cammino, non si parla di passeggiate, non si parla di passeggiate e tantomeno di camminare. Oggi racconto la storia di Rosario che, non ne faccio mistero, è un amico carissimo e che probabilmente i più attenti e affezionati di voi si ricorderanno, perché con lui ho già parlato, di lui ho già parlato. Rosario ha iniziato un cammino molto lungo, che è il cammino lungo il Danubio. Adesso il suo racconto vi spiegherà meglio e poi ci spiegherà meglio lui più tardi. Sta di fatto che oggi si parla di tutti i vostri cammini. Se avete fatto dei cammini prestabiliti, il cammino di Santiago, la via Francigena, o se ve li siete inventati dei cammini da casa di vostra madre a casa vostra. Chi è che l'ha fatto? C'è qualcuno che ha fatto tempo fa, non ricordo più chi, un giornalista, è partito da casa sua e è andato a casa di sua madre. Bravo, Sabelli Fioretti fece il cammino dal Trentino fino a casa di sua madre a Roma e ci mise, credo, un mese a piedi attraverso l'Italia. Il vostro cammino oggi, 349-238-6666, oppure Matteo Caccia, io sono qui, il profilo Facebook, altrimenti la mail, sempre quella. Voi siete qui, @radio24.it. Emanuele, ciao, partirò la prossima settimana... Perdonatemi, da capo. Emanuele, ciao, partirò la prima settimana di agosto per la terza volta dopo il cammino francese, il cammino primitivo, affronterò il cammino del norte. Portano tutti e tre a Santiago de Compostela. Un pellegrino tedesco partito a piedi da Monaco di Baviera, conosciuto l'anno scorso, mi ha detto che essere pellegrini è una droga molto potente, ed è assolutamente vero. Michele, io il Danubio dal paesello natio dell'attuale Papa fino a Budapest l'ho fatto in bicicletta, da solo in 9 giorni. Ora, Michele, dai per scontato che io sappia qual è il paesello natio di Ratzinger, non lo so. So però, ho la sensazione che sia da queste parti in questi giorni, ho avuto, camminando per Milano, ho la sensazione che sia da queste parti, ma non so dove è nato. E poi ancora, estate 2010, via Francigena, purtroppo per il poco tempo a disposizione, siamo riusciti a farne solo un pezzo, siamo partiti da Siena e siamo arrivati a Roma. 349-238-6666, il vostro cammino, questo invece è quello di Rosario. Agosto 2011, Passau, Baviera, Germania. La campana delle 8:30 batte 259 rintocchi. Cerco di scrollarmi di dosso il dolore fisico come fosse solo un pensiero fastidioso. Di scacciarlo, come si fa con le mosche d'estate, con un gesto. Viaggiando da soli, certe inibizioni si perdono. Me ne accorgo quando mi sorprendo a raschiare dalla ciotola dell'insalata l'ultimo seme di finocchio, l'ultima foglia di kraut, che insieme sono divini. E quando, è ormai un'abitudine, mi levo le scarpe al ristorante. Solo che quello di oggi è un ristorante elegante, l'unico aperto e carino in tutta Passau, che fin qui mi ha fatto un'impressione tale da volere scappare domani. Certo, oggi è domenica e per di più piove, ma c'è stato un tramonto fantastico. Quando cammino il tempo cambia, la concezione del tempo cambia. Tutte le mie abitudini sono diverse dallo svegliarsi la mattina presto all'andare alla sera anche prestissimo a casa, ma la cosa più importante è che la tua sensibilità si affina, dipendi dal tempo, dalla pioggia, dal sole, da quanto fa caldo e anche dalla capacità di distinguere e conoscere le persone con un solo colpo d'occhio, se sono buone, se sono cattive, se la tua giornata sarà buona o se invece sarà persa. 9 agosto 2011, Passau, ma dall'altra parte del fiume, in Austria. Occorre attraversare la diga per entrare in Austria. Non ci sono posti di blocco, guardie, controlli di nessun tipo. Sono le compagnie telefoniche, già da Passau, ad avvertirti che sei alle porte, sul cosiddetto Limes. Fidarsi. Fidarsi della strada, delle indicazioni, di chi te le dà. Se non mi affidassi ad ogni passo, non mi muoverei più di un metro. Ieri ho ricevuto il mio battesimo. Una signora, rivolta al marito, ha detto: Das ist der Wanderer. Guarda, quello è il viandante. Le mie giornate sono diverse da quelle delle altre persone. Me ne accorgo quando vado via dai ristoranti. Io vado e gli altri arrivano. Ceno sulla terrazza panoramica del Faustschlösschen, il castello di Faust. Davanti a me il Danubio che scorre da destra a sinistra, dalla diga fino al ponte di Aschach. Sulle navi da crociera che fanno la spola su e giù per il Danubio, ho visto turisti sul ponte correre in tondo per tenersi in forma. Tutti intenti ad osservare le operazioni di apertura e chiusura della diga. La nave sale, la nave scende. Il Danubio è un ascensore. Sul ponte superiore ci sono degli scacchi in formato gigante per killer professionisti nell'ammazzare il tempo. Ci sono giorni in cui tutto ciò che vedo prende la forma di un racconto unitario, lineare. In altri giorni invece mi limito a scrivere rapsodicamente tutto ciò che vedo, che penso, senza seguire alcuna forma. Ieri, fermandomi per la pausa, ho parlato con Lisa, la padrona del bar. Quando le ho detto che venivo a piedi da Donaueschingen, lei mi ha risposto: «Ah, e dov'è?» Questo dettaglio mi ha spiazzato. Sono già così lontano dalla sorgente del fiume che per la gente che vado incontrando non ha più importanza da dove vengo. Molte persone che vivono lungo il Danubio non conoscono altro del fiume se non il pezzo che li riguarda. Non sanno da dove viene. Ciò che sanno del fiume è circoscritto ad un raggio di chilometri più o meno ampio che ha per centro la loro città. Negli alberghi per prenotare ho iniziato a lasciare il mio nome, Rosario. Così la gente mi chiama per nome. Non so perché, ma il mio cognome, tedesco, non riuscivano ad impararlo. Per me un uomo che cammina a piedi lungo la strada è l'immagine assoluta della libertà. Attraversare, come fa il Danubio, 8 nazioni è una fratellanza tra i popoli, è il modo per conoscere la gente e quindi anche conoscere te stesso. L'Austria per prima cosa mi regala un giro in bicicletta fino al paese più vicino. Anche questa è un'esperienza di velocità. In più c'è il sole, meraviglia pura. Passau sarà pure bellissima, ma chi se ne fotte. La Germania è andata. Vediamo che cosa ha da offrirci il paese chiuso tra le montagne. And you said you didn't care about distance. That being miles apart didn't make any difference. I told you I was slow. And you thought that it was fun. And I said, well, I'd rather walk than run. Well, you know, I'd rather walk than run. Io cammino male, lancio il piede in avanti e lascio che il tallone si appoggi alla strada e non accompagno il passo. Me ne sono accorto perché da qualche tempo mi fanno male i talloni. Da quando ho iniziato ad avvertire il dolore ho fatto casa come cammino e mi sono accorto che così non va bene, che devo cambiare l'appoggio del corpo sulla pianta del piede. Devo spostare il peso leggermente in avanti, altrimenti avrò male per il resto della mia vita. Ecco, ho preso coscienza di tutto ciò nei giorni in cui il mio amico Rosario ha deciso di partire per un viaggio a piedi. Forse qualcuno, come dicevo prima, si ricorderà di lui, perché già lo scorso anno parlai di lui e con lui in onda. Rosario ha iniziato a camminare 4 anni fa, facendo quello che è il cammino forse più famoso e frequentato al mondo, il Cammino di Santiago. Se l'è fatto praticamente tutto e al ritorno aveva un sacco di cose da raccontare. E poi, quando non aveva nemmeno fatto in tempo a raccontarmi tutto, aveva già deciso di partire per un altro cammino, meno celebre e soprattutto molto più lungo. Il cammino lungo il Danubio, da Donaueschingen, dove nasce, nella Foresta Nera in Germania, fino ad arrivare a Sulina, in Romania, dove si trova il delta che sfocia nel Mar Nero. In tutto sono quasi 3.000 chilometri, per l'esattezza 2.902. Passando per la Germania, l'Austria, la Slovacchia, l'Ungheria, la Croazia, la Serbia, la Bulgaria, la Romania, la Moldavia e l'Ucraina. Insomma, è una lunga passeggiata. Quando me l'ha detto io non sapevo quanto fosse lungo questo cammino, quanti paesi attraversasse, nemmeno che per tutta la sua lunghezza fosse percorso da una pista ciclabile molto frequentata dai ciclisti. Eppure mi parve subito una follia. E mentre lui mi presentava tutto il suo progetto, io lo guardavo con il fare fastidiosamente accondiscendente che hanno le madri quando i figli da bambini raccontano delle loro avventure dei supereroi, no? Sorridono e ascoltano. Poi i mesi passavano e ogni volta che incontravo Rosario, lui mi raccontava un pezzo nuovo dello sviluppo del suo progetto. Fino a che l'anno scorso è partito, da solo, alla volta della Foresta Nera, e ha iniziato a camminare. Arrivato a Budapest in agosto, ha interrotto il cammino ed è ripartito ai primi di maggio di quest'anno, proprio da lì, per arrivare al Mar Nero. Solo leggendo i suoi dispacci in forma di diario sul suo blog e sul suo profilo Facebook, io ho iniziato a capire quanto fosse complicato quello che stava facendo. Perché quando pensavo ad una persona che cammina, io immaginavo una persona che cammina con uno zaino sulle spalle e delle buone scarpe ai piedi. Invece, la difficoltà organizzativa di un viaggio come questo è inimmaginabile. E non parlo solo dei posti in cui mangiare, dormire o anche solo bere qualcosa, che vanno trovati lungo la strada ogni giorno e in tempo utile, prima che si faccia notte, ma anche solo del portarsi sulle spalle il minor peso possibile e quindi lavarsi ogni giorno mutande, calze, pantaloncini e maglietta per averli freschi e puliti la mattina dopo. Alzarsi all'alba per camminare nelle ore più fresche se c'è il sole e prendersi tutta l'acqua che cade dal cielo quando piove. Fare attenzione alla propria roba perché i ladri ci sono sempre e dappertutto, ma anche solo guardarsi dai cani randagi che riempiono le strade di alcuni di quei paesi. Ma fino a poter scambiare qualche parola con persone incontrate lungo la strada che non parlano né la tua lingua, né l'inglese, né qualche idioma comprensibile. Ecco, io ancora non lo so bene perché Rosario stia facendo tutto questo. Se per un motivo di studio, sociologico, antropologico, personale, non lo so. So però che da quando lo fa è una persona diversa. Lo vedo da quello che dice, da come lo dice, dal fatto che ha una consapevolezza diversa. Tra le varie cose mi ha raccontato, ce n'è una che mi è rimasta più impressa e che ha a che fare con l'identità. Cioè con il fatto che all'inizio del cammino lui si presentava con il suo nome alle persone che incontrava, ma con l'andare del viaggio per tutti lui era il viandante. Come se non avesse un nome né un luogo di provenienza o destinazione, come se l'unica cosa importante fosse che lui era in cammino. Stefano da Treviso dice: ho fatto 1200 km da Lourdes a Santiago e sono tornato dal Cammino del Norte. E poi ancora Elda, due cammini di Santiago, 1400 km. Maurizio da Roma: è il Cammino dell'Inca, paesaggi surreali e strapiombi incantevoli sopra 2500 metri per 3 giorni e 3 notti. E alla fine i brividi di scoprire Machu Picchu. Ma anche semplicemente un Rimini Viareggio, un coast to coast tra boschi e prati dell'Appennino tosco-emiliano, 14 giorni e 13 notti di passione, il viaggio più bello della mia vita. Torniamo però alla persona che ha dato vita a questa puntata con i suoi racconti, con il suo cammino, che è un amico, che è Rosario e che in questo momento è a Belgrado. Pronto Sasà? Ciao, buongiorno a tutti. Come stai? Tutto bene, tutto bene. Senti, è finita la pioggia finalmente. Senti, quanta pioggia hai trovato in questo mese di cammino? Guarda, attraversando l'Ungheria e la Croazia e poi passando in Serbia, devo dire molta, a volte è proprio una vera e propria tempesta, come se invidiamo i pesci del fiume che se ne stavano al coperto, insomma. Senti Sasà, tu non so se da lì sei riuscito a sentire la puntata, però io più o meno ho riassunto quello che fai, però rifacciamolo insieme. Allora, sei partito l'anno scorso da Donaueschingen. Sono partito il 14 di luglio del 2011 da Donaueschingen, che è nella Foresta Nera, in Germania, per arrivare a Budapest, in Ungheria, il 14 di settembre, e attraversando 4 paesi, la Germania, l'Austria, la Slovacchia e un pezzo dell'Ungheria. Per un totale di quanti chilometri? Il 5 maggio. Per un totale di quanti chilometri lo scorso anno? Lo scorso anno, per essere proprio precisi, 1193 chilometri in 72 giorni. Quest'anno invece sei partito il 5 di maggio e sei arrivato di fatto. Sono arrivato il 24 di maggio da Budapest verso Belgrado, attraversando l'Ungheria, la Croazia e la Serbia, e sono stati questa volta 577 in 20 giorni. Quest'anno devo dire che ho corso parecchio, ho fatto la settimana di croata l'ho fatta veramente a un ritmo eccessivo, 40 chilometri, 42 chilometri di media al giorno, ma perché ho incontrato due ciclisti troppo simpatici, una coppia con cui ho viaggiato e loro facevano 40, 50, io mi sono in un modo o nell'altro adeguato. Cioè, nel senso che loro li seguivi a piedi e loro in bicicletta, come quelli che portano il ci cane d'insalto. Ci davamo appuntamento. A proposito, ho sentito prima che parlavi dell'identità. Per esempio, la cosa divertente è che ci siamo incontrati durante una giornata di pioggia, di queste dove piove sempre, e la coppia mi passa, lui è irlandese, si chiama Jono, lei invece è inglese, si chiama Catherine. Mi passano, lui non mi saluta, ma pensa, poi ce lo siamo detto dopo, pensa sotto la pioggia, pensa Crazy German, un altro pazzo tedesco. Mi scambia per un tedesco, perché Matteo, gli viaggiatori oggi non sono più gli italiani, sono i tedeschi, gli inglesi, i francesi, sai, questa è la gente che viaggia. Cioè, quanti italiani hai incontrato lungo il cammino? Zero, italiani non ne incontro mai. Incontro tantissimi tedeschi, austriaci, molti anche francesi, e ogni tanto incontro delle persone che però non riesco a salutare, perché in bicicletta loro vanno più veloce, sono orientali, mi sembra, possono essere giapponesi o coreani. Anche a volte, però non riesco a beccarli mai. Senti Sasso, quindi questa qua è la seconda tappa, la terza tappa è programmata per l'anno prossimo o no? Per l'anno prossimo invece intendo andare da Belgrado fino a Sulina, sul Mar Nero, dove c'è il delta del fiume, che è quella la mia meta. Senti, mi descrivi velocemente una giornata tipo, a che ora ti alzi, quanto cammini? La giornata tipo adesso è stata verso le, insomma, alle 5, sono già in piedi, preparo velocemente la colazione, se c'è, se no invece scappo subito via, comincio a camminare, esco dalla città e sono già in campagna. Raggiungo il paese più vicino, lì compro pane, pomodoro e cipolla e me li vado sgranocchiando durante il cammino. Compro sempre delle banane perché, insomma, come i più grandi tennisti lo insegnano, ci vuole potassio per fare sport e attività, e continuo a camminare finché a pranzo più o meno mi mangio il panino o ancora qualcosa. Ma scusa, ma ti fermi a pranzo o continui a camminare? Mi fermo faccio generalmente, a seconda, se devo fare 40 km faccio due o più pause, di mezz'ora, 50, un'ora e 10, mi levo le scarpe sempre, mi levo le calze, mi metto le infradito e sto fermo. Proprio per avere tutti i dettagli, Sasà, proprio per avere, non farci mancare nemmeno un dettaglio. Assolutamente nulla. Senti, a quel punto quindi hai camminato 8 ore al giorno? 8 ore, a volte anche 10 ore, 12 ore, inclusa la pausa. Cioè la tua giornata... È sempre sotto la pioggia, questa è la cosa drammatica. Certo, questa. Perché scegliamo le stagioni giuste. La giornata di cammino finisce attorno alle 4-5 del pomeriggio, quindi più o meno. Sì, sì. Quando ho raggiunto Novi Sad sono arrivato alle 6:30 del pomeriggio dopo 55 chilometri, una cosa... Quindi vuol dire che... 38 gradi. Quella è una giornata bella calda dove c'erano 38 gradi. Ceni, veramente il tempo si ferma e vai a dormire. Si ferma a guardarti. Senti, ceni e vai a dormire poi. Faccio velocemente un appunto, mi lavo la roba, però anche stavolta devo dire ho trovato sempre persone gentili che mi facevano usare la lavatrice e esco subito a fare un giro veloce della città e mangio e già alle 10 sto dormendo. Senti Sasà, in 20 secondi e poi devo salutare, perché lo fai? Allora, lo faccio perché sono partito con uno zaino vuoto che ho riempito di storie da raccontare. Sono curioso, mi piace conoscere persone che sono diverse da me e non tutto quello che già so. Ok, Sasà, ce l'hai fatta in 15 secondi. Senti, ti abbraccio forte e ci sentiamo quando torni. Grazie ancora. Un abbraccio a tutti voi. Buon proseguimento. Ciao, grazie. Ho fatto il cammino francese, lo scorso anno il cammino del norte. Due ragazze 65 anni. Marilena. Voi siete qui. È in cammino nella foto che Rosario ci ha mandato e che trovate sul suo profilo Facebook, che si chiama Il vento nelle scarpe, se volete visitarlo. Indossa degli occhiali da sole e ha una camicia hawaiana. Fa abbastanza ridere, si veste veramente in una maniera improbabile. Lo posso dire perché è un amico, ogni tanto è veramente improbabile. Però arrivano molti messaggi di persone che camminano e ai quali piace l'idea di Rosario. Ciao Matteo, ho fatto la traversata degli Appennini con gli asini. Abbiamo dormito nei prati con le tende, ci siamo lavati nei torrenti. Bellissimo. E poi ancora ho camminato da Bologna a Firenze a piedi, con mia sorella e zaino in spalla, mariti e bambini a casa. Ciao Renata. Credo che abbia un nome anche quel cammino lì. Da Bologna a Firenze. Mi pare di sì. Marghe, mi guardi? credo, perché è tra gli Appennini, vabbè, tant'è. E poi ci sono i praticoni, quelli che certo, quelli che non lavorano, ma con che soldi campa? Uno, Rosario lo fa perché non ha un cazzo da fare, dovesse lavorare per portare a casa la pagnotta. Ma che ricerca sociologica o antropologica? Li vedo già in macchina in coda, capito? Gli rode troppo il culo. Ma che ricerca sociologica e antropologica? Il tuo amico non ha voglia di lavorare e affrontare i problemi, allora scappa dalla vita. Mauro da Torino. Va bene. Allora ragazzi, innanzitutto il numero lo sapete. Tutte le volte che volete darci consigli su come si vive, su come funziona la vita, 349-238-6666. Sasà lo posso dire perché è un amico caro, ha un lavoro, ha un lavoro che magari non è normale come un lavoro che si considera un lavoro normale, fa l'attore, quando lavora lavora e quando non lavora si può prendere dei periodi, ha dei progetti e fa dei progetti che non sono solo quelli del lavoro. Sembra incredibile, ma si può provare ad immaginare la vita in maniera diversa da come qualcuno l'ha immaginata per noi o da come noi l'abbiamo sempre immaginata. Poi, detto questo, se siete in macchina e vi rode un po' il culo e mandate sms, va benissimo. Detto questo, se vi concentrate un attimo, ma proprio un attimo, magari riuscite anche a pensare a fare qualcosa di diverso stasera, eh? Dallo stare in casa a guardare la TV. Fate una bella passeggiata. Non andate sul Danubio, però magari una passeggiata. Poi, secondo me, la pagnotta la portate a casa comunque, eh? Per quello poi magari c'è qualcun altro che ve lo spiega meglio di me. Eccola qua, Renata, si chiama la Via degli Dei, da Bologna a Firenze, e credo abbia proprio la partenza, credo sia da Piazza Maggiore a Bologna e l'arrivo a Piazza della Signoria. Dico due piazze, le prime due piazze che mi ricordo di Bologna e di Firenze. Buongiorno Barisoni, vabbè, niente, messaggi fuori contesto per Barisoni sono sempre i più graditi. Sul profilo Facebook del programma Matteo Caccia, io sono qui, è arrivato un messaggio di Edoardo. Edoardo era un ragazzo che ci mandò un racconto molto bello, a proposito non ricordo come si intitola, Edoardo Rosso si chiama lui, però lo trovate nell'ebook se avete voglia di votarlo per il live del 19 di giugno, scrivete Edoardo Rosso e lo selezioniamo. E lui ci parlò in realtà di un viaggio in bicicletta lungo la sponda di un fiume. Edoardo però è a modo suo un camminatore, sta facendo un viaggio insieme a Enrico Brizzi, che è uno scrittore che da qualche tempo fa cammini e scrive dei suoi cammini. Edoardo ci scrive su Facebook, se questo computer magari si sveglia un po', mi dice: ma che caso, sono appena tornato da una tappa del Giro della Libertà, il viaggio che Enrico Brizzi sta compiendo tra Roma e Venezia insieme a un gruppo di psicoatleti. Tra i miei psicoatleti mi fa un po' paura. Per noi la psicoatletica è un modo di viaggiare sulle orme dei viaggi del passato, nel caso Roma-Venezia, la fuga di Garibaldi e Anita nel 1849. Già mi immagino i messaggi di tutti quelli che non hanno niente da fare e vanno a fare le vie di Garibaldi e Anita. Edoardo però ci ha anche linkato dal suo blog, che vi dico qual è: Edoardo Rosso, San Gemini, Montepulciano, 135 km. Il suo blog è Edoardo Rosso, lo trovate. E questo è proprio il racconto di un pezzo del suo recentissimo cammino. Viaggiare a piedi, spostarsi da una località all'altra a forza di gambe, lungo sentieri, strade asfaltate, ponti, guadi, periferia e campagna. Lo zaino sulle spalle come unico bagaglio. Amici con cui condividere i discorsi, le battute, i dubbi ad ogni bivio. Incontri con personaggi improbabili e, in definitiva, la scoperta di un paese che ci illudiamo di conoscere bene, ma che non finiremo mai di scoprire. San Gemini, Montepulciano. È stata solo una piccola tappa del più grande viaggio che in questi giorni vede protagonista Enrico Brizzi e il suo drappello di psicoatleti. Il Giro della Libertà si chiama, Roma-Venezia. Un modo per rendere omaggio a Giuseppe e Anita Garibaldi, che quello stesso viaggio compirono nel 1849 braccati da quattro eserciti. Abbiamo coperto circa 135 chilometri, una media di 33 al giorno. All'inizio il corpo si spurga. Non è una questione di allenamento. Capita sempre così. Il primo giorno si bruciano le tossine, si vive con l'ansia della meta, del tempo, del pioverà, del perché ora arriviamo. Poi il corpo, il respiro e anche il pensiero cambiano ritmo. È un processo alchemico. Le impurità vengono scartate e il distillato si fa più puro di giorno in giorno. Il quarto giorno il corpo e lo spirito ingranano la marcia giusta. Le vesciche, opportunamente medicate, diventano calli. L'esaltazione iniziale diviene una sorta di serena determinazione a macinare altra strada, vedere altri luoghi, incontrare altri volti. Chiudere lo zaino e allacciare gli scarponi, consultare la mappa e scrutare il cielo per decidere se indossare o no l'impermeabile, diventano gesti più naturali, più consapevoli, più tuoi. Non mancano i momenti di fatica, i dolori al ginocchio che patisce l'asfalto, La pioggia estenuante, il fiato corto durante salite che sulla mappa sembravano meno ripide. La rabbia e lo sconforto che possono coglierti quando ti accorgi che hai sbagliato strada e sei costretto a tornare indietro. E poi la sera, dopo la doccia che rilassa i muscoli e allevia i dolori, è bello ritrovarsi con i compagni di viaggio che erano con te là fuori, nell'aperto dei campi, sotto la stessa pioggia. È bello alzare i calici di birra e brindare alla tappa di domani. I dolori non spariscono da un giorno all'altro, ma si sopportano meglio. E non c'è come chiamarli, i messaggi di oggi. Caccia, sei uno snob del cazzo, ma va a cagare te, Rosario, vieni qui a tirar la lima e vengo io in radio in giro per il mondo. Guarda, siamo qua, quando vuoi ne parliamo direttamente. Non ho capito perché il motivo sono uno snob, ma tant'è. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche il programma di oggi, Rosario in primis, Paolino Corleoni, Tiziano Bonini e Margherita Hina. Ci sentiamo lunedì con un'altra storia e il 19 di giugno per il live. La storia di oggi era quella di Rosario e parlava di cammino. Quella di lunedì è di Luigi e parla di ricordare persone care. E quello che accadde nell'aprile del 2006, in onore della sua memoria, fu ripreso anche dai giornali. Senza la collaborazione di tutti non ci sarei mai riuscito e la mia idea sarebbe rimasta semplicemente un'idea.